giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sette persone infettate dal vaiolo delle scimmie, sei sono in ospedale a Udine, nessuno in condizioni preoccupanti. Incidente mortale questa mattina alle 6 a Codroipo, un ventenne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion. Comunità differenziate per i casi più complessi è una delle linee di azione sulla gestione dei minori stranieri a Udine. 33esima edizione per Medioevo a Valvasone, si parte questa sera con lo spettacolo inaugurale Fulgor Noctis. 12:31 minuti, buongiorno da Eva Ciuccheri, Tamicoli. Come avete sentito dai titoli, ci sono due distinti focolai di vaiolo delle scimmie in Friuli. Le persone colpite dal virus sono comunque in buone condizioni. Sentiamo. Sette persone sono risultate positive al virus Mpox, il vaiolo delle scimmie. Sei di loro sono ricoverate nella clinica di malattie infettive dell'ospedale di Udine, un'altra in isolamento fiduciario. Si tratta di due focolai distinti. Nel primo caso coinvolta una famiglia di cinque persone, tre adulti e due bambini. Sono in ospedale da metà agosto. In questo caso il virus viene dall'Africa. Il secondo focolaio è stato invece importato da un paese europeo. Questa microepidemia è emersa a fine agosto. I casi più gravi della malattia possono riguardare bambini e persone immunodepresse, ma le condizioni di tutti questi contagiati, residenti a Udine, non destano preoccupazione e sono sotto osservazione. Carlo Tascini, direttore della clinica di malattie infettive di ASUFC. Adesso sembra sotto controllo, stiamo trattando i nostri pazienti con un trattamento antivirale che viene direttamente dal Ministero che si chiama Tecovirimat. Come il vaiolo è una malattia che dà delle vescicole, oltre alla febbre e altre manifestazioni, quindi va riconosciuto in questo senso e quindi anche i medici insomma devono tenerne conto, perché dal 2022 abbiamo casi sporadici e microepidemie in Italia, non è la prima volta che anche in Friuli Venezia Giulia abbiamo dei casi. Il virus si trasmette per contatto interumano stretto. Gli specialisti ricordano a tutti di prestare attenzione ed evitare comportamenti a rischio, tenendo ben presente che le malattie sessualmente trasmesse, Mpox incluso, oggi in tutta Europa sono in forte aumento. Simone Lanini, professore associato di malattie infettive di ASUFC. C'è anche un vaccino sicuro di terza generazione, e che ci serve sia per prevenire l'infezione in alcuni gruppi di persone che noi riteniamo essere ad alto rischio, e per questo è cosa buona che la popolazione chieda al proprio medico se ha una vita con comportamenti a rischio, e dall'altra non solo, ci serve anche per poter prevenire le forme più gravi nelle persone che hanno avuto un contatto stretto. Quindi importante è chiedere al medico e rivolgersi allo specialista. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale questa mattina alle 6 lungo la strada regionale 13, a perdere la vita Aldo McLean, nato a Udine, 20 anni compiuti da poco più di un mese. Il giovane era a bordo della sua vettura e stava procedendo in direzione Campoformido quando, poco prima dell'ingresso all'aerobase, è finito contro un mezzo pesante che arrivava nel senso opposto. A causare l'incidente, la perdita di controllo del mezzo finito sulla corsia su cui procedeva il camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nulla da fare per il giovane, il cui decesso è stato constatato dal personale del 118. Illeso invece, ma sotto shock, l'autista del mezzo pesante, che ha immediatamente lanciato l'allarme. L'incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione della zona. Differenziazione delle comunità che ospitano i minori stranieri non accompagnati e poi avviare un percorso interistituzionale tra comuni, regione, associazioni, tribunale per i minori, l'azienda sanitaria. Sono alcune delle proposte emerse dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Udine, Domenico Lione, per discutere le soluzioni per evitare il ripetersi di disordini come quello degli ultimi giorni alla Casa dell'Immacolata. Creazione di sezioni specializzate o di vere e proprie comunità differenziati per i minori stranieri non accompagnati con maggiori fragilità, che si rendono protagonisti di intemperanze o che necessitano di un'attenzione particolare. Iniziare un percorso per delle strutture che facciano da filtro al momento del rintraccio del minore, per capire a quale comunità sia più adatto. E da ultimo sciogliere il nodo dei difficili controlli sull'età dei ragazzi. Queste le tre linee di azione che sono emerse dal Comitato Ordine e Sicurezza convocato in Prefettura Udine dopo i recenti episodi di cronaca legati ad alcuni ospiti delle strutture d'accoglienza. Presente alla riunione le forze dell'ordine e i rappresentanti del mondo della cooperazione. Per fare tutto questo sarà avviato un percorso interistituzionale tra comuni, regione, cooperative, azienda sanitaria e tribunale dei minorenni. Bisogna studiare la compatibilità normativa delle proposte, ha detto il prefetto di Udine, Domenico Lione. I controlli di polizia saranno inoltre rafforzati. Se non avviamo questo percorso non riusciremo a capire quali dotazioni aggiuntive servono. E serviranno, sottolinea il presidente della Casa dell'Immacolata, Vittorino Bohem. In questo settore è già difficile trovare educatori, ma forse sarà più facile trovarli differenziando le comunità. Emersa anche l'esigenza di equilibrare le etnie dentro le strutture, ha affermato il sindaco De Toni. Ne mancano che facciano da filtro una volta rintracciati i minori e prima che questi vengano assegnati alle cooperative, ha continuato il sindaco. Ultima questione aperta è la difficoltà di stabilire l'età di alcuni ragazzi e andrà affrontata con la questura. Gli autori di questi fatti sono una minoranza e sempre gli stessi, ci ha tenuto a precisare il prefetto Lione. Il problema dei fondi e dei rimborsi a chi si occupa di accoglienza, concluso, riguarda non solo la regione ma tutta Italia e sarà affrontato dal governo nel prossimo assestamento di bilancio. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Arriva il fascicolo sanitario elettronico 2.0 in regione. Finora la digitalizzazione della sanità è andata decisamente più rapida rispetto al resto d'Italia, ma si può migliorare. Il futuro è un fascicolo sanitario innovativo su base europea. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di fine giugno sono definiti i contenuti del profilo sanitario sintetico redatto da medici di base e pediatri e che raccoglie le informazioni essenziali sul paziente per garantirne la presa in carico e la continuità assistenziale. In regione i dati relativi alla digitalizzazione sanitaria sono lusinghieri. Nel periodo 19-25 sono stati attivati tutti i fascicoli elettronici in rapporto alla popolazione e il 53% è stato consultato, con la produzione di 287 milioni di documenti digitali. Nel sistema regionale ci sono 49 milioni di referti di laboratorio e ben 191 milioni di ricette dematerializzate, dati che fanno del Friuli Venezia Giulia una delle regioni più innovative al passo con i tempi. I medici specialisti abilitati alla consultazione sono il 96% contro il 72% su scala nazionale e rispetto al consenso alla consultazione dei dati siamo all'86%, quando nel resto d'Italia si arriva a malapena al 40%. Questo fa la regione, assieme al Veneto e Valle d'Aosta, l'unica regione che raggiunge gli obiettivi del secondo quadrimestre 2025. Ma si può migliorare anche sperimentando ulteriormente la telemedicina. Massimiliano Fedriga, presidente regione Friuli Venezia Giulia. La tecnologia può aiutare a migliorare i servizi ai cittadini e garantire anche un controllo e un'assistenza più costante. Penso per esempio ai controlli in remoto dei pazienti cronici, che potranno garantire una costanza nel monitorare le situazioni patologiche del paziente stesso e ovviamente la capacità di intervento da parte del medico in caso di necessità. Intanto proseguono i collaudi nel nuovo ospedale di Pordenone. I primi pazienti in reparto potrebbero arrivare a cavallo di ottobre-novembre, ma l'assessore alla salute Riccardi non si sbilancia. Abbiamo dato il cronoprogramma di questa attività che hanno a che fare con i collaudi. Quindi ci può confermare che dovrebbe essere operativo la prima settimana di novembre? Adesso io non mi metto a fare il calendario, però insomma gli obiettivi sono quelli. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inaugurato a Muggia il primo sportello dedicato a coloro che si prendono cura di persone affette da forme di demenza, un'iniziativa promossa da Demenza Friendly Community di Muggia in collaborazione con l'associazione The Banfield, il sostegno di Regione, Comune di Muggia, Asugi e Proloco di Muggia. Proprio nella sede della Proloco muggesana una volta al mese sarà presente una assistente sociale dell'associazione The Banfield per fornire ai caregiver informazioni, sostegno e strumenti pratici per affrontare le diverse fasi della malattia. In un momento delicato come quello attuale sul piano internazionale, l'area balcanica riveste un ruolo centrale, lo ha detto la presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Stefania Craxi, in visita all'INCE. In un momento storico segnato dall'instabilità mondiale, penso ai tanti conflitti, per primo quello dell'Ucraina, ma anche quello che sta succedendo al popolo di Gaza, io credo che dobbiamo avere un surplus di responsabilità a lavorare sulla cooperazione. In quest'ottica l'INCE può essere un forum importante regionale, perché per noi l'area balcanica continua a essere una priorità. Lo è per l'Italia, lo è per il Friuli, lo è per l'Europa. L'INCE è un istituto che va rilanciato, ha svolto un ruolo importantissimo nel passato e dovrà svolgerlo nel futuro. Lo ha detto la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che questa mattina ha effettuato una visita istituzionale al segretariato esecutivo dell'iniziativa centroeuropea a Trieste. L'INCE sta a pieno titolo in questa vicenda complessa che riguarda l'integrazione dei Balcani occidentali e si impegna quotidianamente per facilitare l'ingresso nell'Unione Europea dei paesi non UE, ha aggiunto il segretario generale dell'INCE Franco Dalmas. Oggi uno dei motivi delle tensioni che ci sono in paesi come Belgrado, la Bosnia e il Kosovo sono anche dovuti al fatto che l'Unione Europea tarda in procedure troppo complicate per l'acquisizione dello status comunitario. Dobbiamo dare a questi paesi, ha concluso, l'opportunità di stare in Europa perché altrimenti se ne vanno con altri. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata superata quota 3.200 firme, incalcia la petizione promossa dal comitato Nobio Metano a Pagnacco, contrario al progetto di un impianto in località Modoletto, frazione del comune collinare. L'annuncio è stato dato alla fine di un incontro organizzato ieri sera dal comitato che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. La contrarietà è stata argomentata da diversi punti di vista, sanitario, storico, paesaggistico, della sicurezza e viabilità. L'insalubrità che tale struttura comporterebbe in una zona ancora agricola e di pregio naturalistico è stata illustrata da Michele Plotzer, dirigente veterinario, e da Giuseppe Stinco, direttore della clinica dermatologica, nonché da Francesco Curcio, direttore dell'Istituto di Patologia, e dal pneumologo Mario Canciani. E l'agronomo Ezio Temporale ha inquadrato possibili ricadute negative sul territorio, così come la storica dell'arte Gisella Fiorini. Molti gli accenni anche alla criticità infrastrutturale del progetto in presenza di una zona di falde superficiali e di terreno permeabile. Diversi anche gli accenni ai temi della sicurezza, ricordando alcuni incidenti gravi agli impianti avvenuti in passato, di cui uno in regione. Gorizia sta ospitando il 120° congresso della Società Botanica Italiana e l'11ª edizione dell'International Plant Science Conference, che riunisce circa 300 tra ricercatori e partecipanti provenienti da Italia, Austria, Slovenia e Stati Uniti. La natura non conosce confini, è questo il fil rouge del 120° congresso della Società Botanica Italiana, che non a caso ha scelto di celebrarlo a Gorizia, capitale europea della cultura e città simbolo dell'abbattimento delle barriere. Sono oltre 300 i partecipanti arrivati da tutto il mondo all'appuntamento organizzato da una delle società scientifiche più antiche d'Europa, che come succede da ormai 11 anni ospita anche un convegno con ospiti internazionali. Fino a domenica l'Auditorium della Cultura Friulana e il Centro Polifunzionale dell'Università di Udine saranno sede di sessioni plenarie e simposi tematici su argomenti come la biogeografia, l'ecologia forestale, le collezioni botaniche, la gestione della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici e alla diffusione delle specie aliene invasive. Un esempio legato al Friuli Venezia Giulia, spiega Mauro Tretiak, prorettore vicario dell'Università di Trieste e presidente del comitato organizzatore del congresso, è l'ailanto che negli ultimi decenni, nelle aree una volta destinate all'agricoltura, ha soppiantato sempre di più il gelso. Il congresso è il fiore all'occhiello della rassegna Verde Capitale, Go 2025, città di parchi, giardini e api, organizzata dal comune di Gorizia. E per questo, oltre alle attività scientifiche, sono stati previsti anche momenti di divulgazione aperti al pubblico, una visita guidata alla città di Gorizia e un'escursione nel Carso per promuovere il dialogo tra comunità scientifica, istituzioni e cittadini. Gorizia, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11. A Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Udine e Gorizia 26 gradi, a Pordenone 24 gradi. A Tolmezzo 22 gradi, a Forni di Sopra 21. Sul Piancavallo e a Tarvisio 20 gradi, a Sappada 18. Sul Monte Lussari 16 gradi, sul Monte Zoncolan 18 gradi, sulla costa Lignano 25 gradi, grado 24, temperatura del mare di 24 gradi in entrambe le località. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, oggi pomeriggio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sui monti, venti di brezza, temperature massime in aumento, specie in pianura dove si torneranno a sfiorare i 30 gradi. Domani al mattino bel tempo con cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio sulla zona montana il tempo sarà variabile con possibili rovesci e temporali sparsi che non si esclude possano interessare localmente qualche zona della pianura in serata. Venti di brezza. La 33esima edizione di Medioevo a Valvasone è pronta a riportare ancora una volta il borgo friulano indietro nel tempo. Da oggi alle 19 fino a domenica le vie, le piazze, i parchi si animeranno con l'apertura dei cancelli e delle taverne. I primi appuntamenti oggi con il rito del rinnovo delle promessioni del cavaliere e lo spettacolo inaugurale Fulgor Noctis in scena alle 21:45 al Parco Pinni. E ora parliamo della manifestazione con Giuseppe Balducci del gruppo Artistic Furlan che organizza l'evento. Prevediamo una presenza di almeno 35.000 persone distribuite nell'arco delle 4 giornate. Inizieremo con la serata a tema Fulgor Noctis, prende il nome appunto da uno spettacolo che verrà realizzato appositamente per la nostra manifestazione, è uno spettacolo di fuoco, è una nostra esclusiva che abbiamo a livello nazionale che viene allestita dal gruppo storico di Assisi per la manifestazione appunto Medioevo a Valvasone, per poi continuare il venerdì, il sabato e domenica con l'apertura del mercato medievale, con bancarelle, con circa un centinaio di artigiani che proporranno le loro maestrie o i loro mestieri, in abbinata a tutti gli spettacoli, agli intrattenimenti, sono oltre 200 esibizioni che vengono distribuite nell'arco dei, appunto, dei 4 giorni e insieme anche come evento clou è il Teatro dei Misteri dove verrà interpretato appunto uno spettacolo dell'Oriente, perché la manifestazione ha un tema, ogni anno cambia tema e quest'anno il tema è Orientibus Partibus, quindi la porta tra Oriente e Occidente, per poi passare il sabato e la domenica che sono due giorni dedicate alle famiglie, dove appunto le famiglie possono permettere ai propri figli di vivere direttamente alcune attività come caccia e mestieri e l'avventura medievale, dove vestiamo, facciamo interpretare un'avventura ai ragazzi in giro per il borgo. Il tutto viene abbinato anche dalla possibilità di degustare su 11 taberne distribuite in tutto il centro storico pietanze che hanno il sapore medievale e appunto a ognuna di queste taverne ha un proprio piatto tipico. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Diabolique, Tex, Nathan Never, ma anche Paperino, Animali Fantastici e Draghi Colorati uniti in una nuova avventura artistica per supportare l'associazione Skladmi Tiaciuk che si occupa di persone con disabilità. Si intitola Tratti di creatività, segni di solidarietà, l'esposizione collettiva di fumettisti, artisti e illustratori italiani e sloveni che sarà inaugurata questo pomeriggio al Caffè San Marco a Trieste alle 18:30, un'idea nata dall'artista, fumettista e regista Romeo Toffanetti. Quando tu guardi negli archivi e rimettendo a posto vedi tante di queste tavole originali messe lì e ti chiedi se possono servire qualcosa di importante. E così è nata l'idea di aiutare questa associazione, Miti Aciuk, molto bravi, molto volenterosi e fantastici, e ho buttato lì l'idea ad alcuni colleghi che tutti hanno sposato all'istante. Potrebbe essere anche la prima di un inizio di eventi di questo tipo. Ho avuto molta risposta anche dagli illustratori coinvolti nella mostra, tutti sono stati estremamente, come dire, generosi. Nella mostra vedremo dei miei colleghi fumettisti della scuola di Pordenone come Emanuele Barison, disegnatore di Zagor Tex, che ha offerto diverse tavole. Poi abbiamo Davide Toffolo e il leader tra lei dei ragazzi morti. Abbiamo anche Mario Alberti di Trieste, fumettista che ha collaborato con la Bonelli per la Francia, l'America, Pastrovicchio per la Disney e più tutta una serie di illustratori del territorio bravissimi come Caterina Kaltz, Giva Pahor, Dunia Jogan, Chiara Verza, Yuri Devetak, tutti hanno aderito con molto entusiasmo all'idea. Per musica a 4 stelle, idee delicate, il carteggio Leonardo Sciascia Cyril Slobez alle 21 nella Basilica di Santa Eufemia accompagneranno gli spettatori tra gli ideali, la storia della società contemporanea e la poesia, con al centro il carteggio fra lo scrittore siciliano e il poeta sloveno. A Blessano di Basiliano da oggi a domenica ritorna Blessound, musica indipendente a ingresso gratuito, concerti, DJ set, quest'anno anche un laboratorio, unico evento a pagamento, prima il testo, la musica, come si scrive una canzone, in programma oggi alle 19. A Gradisca di Sonzo il festival Invisible Cities propone alle 19 French Line. La performance si svolgerà in un appartamento privato e accoglierà soltanto un piccolo gruppo di spettatori alla volta, storia ambientata a febbraio del 1947. A Parigi si firma il trattato che segnerà la linea di confine tra Italia e Jugoslavia. Alle 21, al Teatro Nuovo di Gradisca, lo sciamano di ghiaccio, spettacolo multimediale che con la voce della cantante Inuit Karina Müller condurrà il pubblico in un viaggio nella Groenlandia contemporanea. Dalle 17.30 alle 20.30 alla Casa Festival, aperta la mostra Trasposizione alle 18, alla Sala Bergamas, la danza di I versi delle mani per Zero gradi di separazione, che intende promuovere iniziative accessibili ad un pubblico con disabilità. Uno spettacolo su Giacomo Casanova andrà in scena a Trieste all'Istituto regionale per la cultura istriano fiumano dalmata alle 17.30. Interpreti Raffaele Sinkovic e Michela Cembran con accompagnamento di musica barocca. Il cuore burbero del commissario Crismani è il primo romanzo del caprivese Silvano Colugnati. Presentazione alle 18.30 nella sala civica del comune di Capriva del Friuli con Paola Cosolo Marangon, formatrice e consulente psicopedagogica. Cogos in place, omaggio a coloro che hanno fatto la storia della ristorazione carnica in piazza 20 settembre. A Tolmezzo dalle 19 fino alle 23, storie, sapori, musica e memoria. A Trieste, negli spazi del Polo Giovani Toti, evento conclusivo del PhD Summer, il festival estivo del PAG, il progetto Area Giovani, con workshop, laboratori ed esibizioni dal vivo, inizio alle 18. Ora lo sport, la velista triestina Francesca Klavcic, co-skipper del team tedesco Malizia, sbarca nel porto di Genova per la tappa genovese di The Ocean Race Europe che si chiuderà il 21 settembre in Montenegro. Proprio a Genova Klavcic ha vinto questa regata nell'ultima edizione, sentiamola nell'intervista di Antonio Zagarese della redazione RAI della Liguria. Secondo me la parte più bella di questo sport è che non si smette mai di imparare, qualsiasi persona con cui navighi ti porta veramente una prospettiva diversa e qualcosa di per me speciale che a quasi 40 anni mi dà ancora la motivazione di continuare a farlo, perché ogni giorno veramente è un giorno diverso, è un giorno bello in mare, a prescindere poi se vinci o perdi comunque impari sempre qualcosa di nuovo e quello che ci mantiene un po' vivi. Raccontaci qualcosa che ti ha colpito di questa Ocean o che ti aspetti da qui alla tappa in Adriatico la prima volta. Ma guarda, il tuo Adriatico, il mio Adriatico. Ma guarda, in realtà la cosa un po' speciale è che con questo tipo di barche in Mediterraneo non ci navighiamo tanto, siamo magari navighiamo in Atlantico, in Pacifico, facciamo veramente delle navigazioni di alto oceano, però in Mediterraneo non ci veniamo quasi mai. E in realtà è una parte del mondo molto molto complessa, le situazioni meteorologiche cambiano in maniera molto veloce e sempre molto imprevedibile. Quindi in realtà è una forma di navigare anche divertente, perché non sai mai cosa ti aspetti, devi essere sempre un po' sul pezzo e per me insomma è stato molto interessante da scoprire. Adesso la prossima tappa ci porta in Adriatico, e quella è un po' il mare di casa, sono nata e cresciuta a Trieste. In realtà il Montenegro è quasi più vicino a Trieste di Genova, via mare, poi via terra mi sa che cambia un po', però no, sarà sicuramente interessante e ti dico, non ci arriviamo quasi mai in Adriatico con queste barche qua, quindi sarà bello interessante. Comincia oggi pomeriggio a Lignano Sabbiadoro Easy Fish, la manifestazione enogastronomica dedicata al pesce dell'Alto Adriatico. La nona edizione prevede 4 giorni fino a domenica di degustazione, show cooking e street food tra il Lungomare Trieste, il Beach Village e l'ufficio Spiaggia 7. In programma anche 3 serate tematiche con alcuni chef della regione giovedì, venerdì e sabato alle 19, mentre sul palco del Beach Village interverranno chef di calibro nazionale. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 17 alle 24. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Marco Ferrito, Mauro Cumin, Ugo Nicoletti. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, da Eva Ciucca e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.